Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Somos la revolución. Sì, signor. La revolución. Sì, signor. Sì, signor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sì, signor. Sì, signor. Somos la revolución. Viva la revolución. Eventuali azioni di qualche PM, che non essendo io protetto da nulla, non sono parlamentare, potrebbero anche portarmi a non essere più libero. Se questo dovesse accadere, Cristo, io spero che voi abbiate il coraggio di fare una rivoluzione. E poi abbiamo avuto contro, come sapete bene, la magistratura. Io sono stato accusato per 65 volte dai PM di sinistra di aver commesso dei reati, tutti i giudici di sinistra, con i risultati che avete visto a Napoli qualche giorno fa. Purtroppo gli italiani dal 48 ad oggi non hanno mai imparato a votare. A una sciura di 60 anni che guarda la televisione, gli piace Casini, che è un bel figlio, e vota per Casini. Bisogna votare con intelligenza, cosa che gli italiani non hanno ancora imparato a fare. Ragazzi, mi sembra di essere ripiombato a 15 anni fa. Ma sono cose che... Era Silvio Berlusconi, ovviamente, scusate la voce, ma... Era 15 anni fa che diceva queste cose. Votano Casini, che lei è un bel fieu. C'è un bel ragazzo, un bel figliolo. Italiani, imparate a votare! Capito? Imparate a votare! Attaccare! E se mi arrestano, fate la rivoluzione. Attaccare! Pizzico di rivoluzione. Ah, va bene, dai. È venerdì. Si chiude la 115esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Evviva, sono le 6:29 minuti e questo è 24 mattino. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Carmelo Lauricella in regia. Non è quel venerdì in cui... Il venerdì in cui poi vi saluteremo, che è venerdì prossimo, e poi andremo in vacanza anche noi per 5 settimane ancora, che mi scrivono e mi chiamano. 5 settimane di vacanza, ma quando torni sei sicuro di avere il posto? Ecco, questo, e qui mi faccio serio per un attimo, non sono mica sicuro. Spero che 24 mattino riprenda al 31 agosto con questo orario, dalle 6:30 alle 9. Non è detto, l'estate porta consigli o mali consigli, quindi vedremo. Comunque, 6:30 minuti, questo è 24 mattino, finché ci siamo, eccoci qua. C'è da aprire il Parlamento? Chi lo sa? Intanto voglio salutare. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Una persona prontissima alla rivoluzione dovesse accadere, Vladimir Luxuria, eccola qua, la vedo già in piazza. Cioè, sì. Non che mi auspico, no, non auspico niente a Berlusconi, ma dovesse succedere. Pronta? Non hai capito, però io scendo in piazza se non ti rinnovano il contratto. No, io sono assunto da Radio 24. Con una rivoluzione se non ti risento presto al mattino. Ah, è chiaro. Vabbè, questo no. Io pensavo invece pronta già con come si potrebbe fare una rivoluzione per Silvio Berlusconi, non lo so, non lo so. Vabbè, comunque Vladimir Luxure è qui, poi dopo andrà. Ma a che ora ti sposti per andare a Radio Capital? Cioè, raccontaci un po'. Allora, ti svegli alle 6:30 più o meno. Mi sveglio alle 6. Alle 6. Poi alle 6:30 parlo con te. Qualche volta. Poi 10 minuti mi faccio la barba, sto scherzando, 10 minuti mi faccio la doccia e poi prendo la macchina e si va, in radio. Verso Radio Capital alle 9, il Geco la farfalla. Allora, intanto Vladimir, fammi salutare Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama, lui prontissimo sì a fare la rivoluzione. Maurizio, sei pronto? Per tantissime cose, anche con Vladimir vengo subito. Sì. Da proteggerti subito. Sì, tutti quegli scudi, proprio le alabarde, gli elmi. Le Molotov, addirittura le Molotov, no. Allora, è tornato Silvio Berlusconi, ma no, una domanda però ce l'avrei, Vladimir, ma come fai quando fai le notti alle 3, alle 4 del mattino, le feste al Gay Village, non so, ci saranno delle feste che si prolungano fino alle 2, alle 3, come fai a svegliarti? Recupero il pomeriggio, dormo un po' poco e poi recupero il pomeriggio con la famosa siesta. Ah, ecco, la famosa siesta di 2 o 3 ore, va bene, mi sembra giusto. Allora, è tornato Silvio, questo, vabbè, al di là di tutto, ti sembra combattivo, Vladimir? Ma io non sono mai stato uno di quelli che l'ha mai dato per scomparso, per sconfitto. Sì. Devo dire che ha un po' migliorato il linguaggio, adesso dice che gli italiani che non votano lui non sono così intelligenti, una volta diceva che erano direttamente coglioni, quindi secondo me ha fatto un piccolo, diciamo, un passo di eleganza. E poi devo dire, insomma, l'idea che uno vota Casini, no? Perché l'ha un bel figlio, insomma, c'ha pure una certa età Casini, forse poteva fare un altro esempio. Lo so, ma magari le donne un po' anziane vedono in Casini, no? Dice un po' un bel figlio. No, ma ce l'avevamo anche dimenticato in realtà Casini. Effettivamente lui. È riuscito a riabilitare Casini, Maurizio, questa non è male, ha riabilitato Casini che era un po' nel dimenticatoio, no? Hai parlato anche di Bossi, dici, parlando Bossi. Di Calasco. No, ma quale, ma non è che mi abbia mandato un audio di 15 anni fa, che non ce ne siamo accorti. È stato ma effettivamente c'è una serie di ritorni al passato. Non lo so. Si è fatta la rivoluzione, battuta sorridente, nel caso servissero, ricordatevi che Bossi e Kalashnikov. Ah, che Bossi e Kalashnikov, ma allora era il momento della goliardia, così, al momento della goliardia. Io non sono sicuro che fosse proprio così seria la cosa, ma insomma, magari è possibile. No, cioè nel senso era molto serio. Cioè, che vuol dire? Che c'è qualcuno che lo vuole arrestare? Che ne so, io non sono mica nella mente dei magistrati. No, perché magari effettivamente l'ha buttata lì Silvio Berlusconi con quel tocco di malizia, perché magari sa qualcosa, sospetta qualcosa, non lo so, vabbè, non è il pensiero di un venerdì alle 6:34 minuti e soprattutto di un venerdì 17. Venerdì 17, infatti, cioè, sì. Però io in questo sono più americano. Guardate che era venerdì 13 quello che veramente conta. Vladimir, tu sei superstiziosa? No, io sono sempre del famoso detto: aver paura di un gatto che nero che ti attraversa la strada dipende dal fatto di essere uomini o topi. Infatti. E poi il 17 a me porta fortuna, il mio numero fortunato. Allora evviva, è venerdì 17, urliamolo forte, è venerdì 17, vabbè, insomma, fortissimo no, però insomma, allora spero che Luxuria prenda il tuo posto, brutto Milan, questo no vabbè, questo subito io voglio bene. Ma ascoltatori, ma no. Anch'io ho i miei stalker in radio. Dai. Ognuno c'ha i suoi. Allora, parliamoci chiaro. Fai un outing totale sugli ascoltatori. Qualcuno che ti scriverà le peggio cose, perché la peggiore, il più classico. Ma una volta mi hanno scritto, non sei, ma ha scritto: mi fai schifo da uomo, sei schifoso da uomo e sei schifoso da donna. E io gli ho risposto: vabbè, vuol dire che sono favolosa da trans. Cioè, perché questi qui in realtà poi ti ascoltano, quindi sono uno zoccolo duro dell'audience. Certo. Sono lì, ti insultano e dicono le cose, però stanno lì, non bollano, ti ascoltano, quindi sono, rispetto anche loro. Sono gli odiatori. Eccoci qua, c'è Maurizio, sì, ti abbiamo richiamato perché forse si sentiva un pochino male l'audio, ma adesso forse sarà meglio, ma c'è da parlare del tema del giorno. Allora, c'è questo signore, esatto, Rosario Crocetta, presidente della regione Sicilia, si è autosospeso anche se l'autosospensione non esiste nello statuto siciliano, già questo è straordinario. Comunque, cosa succede? L'Espresso oggi pubblica un articolo nel quale si parla di un'intercettazione che non è agli atti, questo dice la procura di Palermo, ma l'Espresso si difende così dicendo che è stata secretata e in realtà il nostro giornalista l'ha ascoltata personalmente. In questa intercettazione il medico Tutino, che è stato arrestato, che è considerato molto amico di Crocetta, lo è, avrebbe detto al telefono con Crocetta: Lucia Borsellino, cioè l'ex assessore alla sanità, nonché figlia di Paolo Borsellino, va fatta fuori come suo padre. E in questa telefonata Crocetta sarebbe lì silenzioso ad ascoltare. Ora si è aperto un giallo clamoroso, Crocetta ora contrattacca, dice: guardate che chi ha scritto quell'articolo, cioè Piero Messina, è stato licenziato da me, era nell'ufficio stampa della regione, quell'intercettazione non esiste, io non me la ricordo, io... E Crocetta anche piange, sentite Crocetta. Io non sono cuffaro, che era legato alla condannato, stava lì a gestire la regione siciliana. Io ho scelto una missione, questa missione, se è possibile portarla avanti, basta, se no, no, assolutamente. Lasciatemi nella mia sofferenza e nel mio dolore, qui mi sento. Mi lasci stare, per favore. Va bene. Insomma, Maurizio, qui è come allora è chiaro che se fossero veri i fatti è una cosa odiosa, insomma non è neanche da commentare un'eventuale telefonata in cui uno dice va fatta saltare come il padre. Però qui il giallo si è diventato sempre più intricato, eh? Ma senti, allora a me Crocetta non è particolarmente simpatico, non lo è mai stato. Devo dire che ho letto da qualche parte che tra l'altro l'Espresso non avrebbe scritto per la prima volta questa cosa, ma la cosa sarebbe stata scritta dalla Sicilia, quotidiano della regione, una quindicina di giorni fa, non so se sia vero perché non l'ho letta. Se è vera, non è bella. Sì. Non è la prima volta, tra l'altro, proprio in questi giorni, che intercettazioni o presunte tali squassano un po' con la politica, perché sì, è stato quotidiano qualche tempo fa. Quella però è un'intercettazione vera, cioè almeno confermata. Sicuramente vera. Qui proprio non c'è, è il racconto di un giornalista che dice che esiste questa intercettazione. Bisognerà vedere, la procura lo smentisce piuttosto autorevolmente, perché infatti è stata fatta una conferenza stampa immediata e improvvisata dal procuratore Francesco Lovoi. Quindi obiettivamente si è speso in maniera piuttosto autorevole la procura. Vedremo queste cose, però obiettivamente non sono belle. Oggi Crocetta, poi lo leggeremo in rassegna stampa, fa due interviste a Repubblica al Fatto, proprio dice: mi vogliono uccidere, è una turlupinatura. Addirittura dice: da oggi non ci sarà più il metodo Boffo, ma il metodo Crocetta. No? Allora, la butta un po' con qualche enfasi. Con molta enfasi. Ripeto, a me non piace l'uomo. No, però si è scatenata una, non so, tu Vladimir che idea ti sei fatta? Perché nel giro di due minuti ieri è partito sui social network una battaglia a dire: Crocetta, dimettiti, vergognati, seppellisciti, non lo so, di tutto di più gli hanno detto. Vladimir, tu che idea ti sei fatta? Allora, io ho l'idea che puoi distruggere una persona, diciamo così, che sia un Presidente della Repubblica o che sia un comune cittadino, da una presunta intercettazione telefonica, tra l'altro con un giornalista che era stato licenziato, come ha detto lui stesso, alla Regione Sicilia. Insomma, io veramente non mi piace un'Italia di forcaioli pronti a esaltarti o a distruggerti in base a presunzioni, tra l'altro di un silenzio, neanche qualcosa di detto, perché è stato... Sì, diciamo, lui avrebbe, così, avrebbe replicato questa sua... Beh, se è vero che non Io, guardi, io ho conosciuto Crocetta e Crocetta, io mi ricordo sempre questa telefonata di Crocetta che mi chiese se stava piovendo e io dissi, scusa, ma perché lo chiedi a me? Perché lui è murato vivo, perché lui è stato minacciato dalla mafia di morte, per cui non può avere le finestre che danno sull'esterno perché è una minaccia. Io sono sicura che una persona come Crocetta, che sa cosa significa essere minacciato di morte dalla mafia, veramente di morte dalla mafia, non potrebbe mai avere asserito ho condiviso una frase ignobile e vergognosa come quella sentita. Ma una frase del genere, come dire, non so, non si commenta neanche, non è che uno può in qualche modo anche contestare. Io capisco che uno dica Lucia Borsellino che evidentemente questo dottore non considerava politicamente vicina a lui, ma come fai a dire va fatta fuori, come va fatta saltare in aria come suo padre? Ma dai, insomma. Comunque Crocetta ancora sentite, dice io non ho mai sentito questa frase. L'ha sentita questa frase? Mai, mi autosospendo perché non riesco a gestire questa sofferenza e voglio riflettere, perché sono un essere umano, preferisco il mio leccarmi le mie ferite e il mio dolore. Però Lucia Borsellino, per la verità ieri l'abbiamo sentita anche noi al telefono, ha detto non faccio interviste, volevo invitarla. Poi oggi avremo ospite Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, alle 8.15. Lucia Borsellino subito ha commentato come se la cosa fosse vera. Oh, dovete sapere che Lucia Borsellino, che è l'assessore regionale della Sicilia, si è dimessa proprio anche quando è stato arrestato questo dottore Tutino, Mi sento intimamente offesa, certamente, e poi provo anche un senso di vergogna per loro. Credo che ogni altra parola in questo momento sia assolutamente superflua. Il quadro che emerge è un quadro veramente triste, nel quale si comprende qual è il clima nel quale sono stata costretta ad operare. E qui Maurizio Tortorella, cioè, dà per scontato che sia tutto vero, è quello che... Sì, e io devo dire, sono molto d'accordo con quel che diceva Vladimir Luxuria, cioè queste intercettazioni di cui appunto non si sa nulla, che sono presunte intercettazioni, che riescano, ed è il problema è il silenzio della mancata risposta di Crocetta alla frase apparentemente proferita dal suo interlocutore, il medico. Siamo molto sul vago, molto sul... Sì. È un... stiamo veramente chiacchierando su una cosa di cui obiettivamente non sappiamo nulla, per carità, non sappiamo se quello l'abbia sentita, non l'abbia sentita, abbia deciso di stare zitto per dissenso o come dice lui, no, evidentemente è entrato il telefonino in una zona in cui non c'era campo. Beh, vabbè, questa è fantastica, però quando all'inizio ha detto dice di non averla sentita perché non potrebbe essere non è chiaro. È il solito maledetto imbroglio delle intercettazioni che in questo paese sta diventando ovviamente un gioco fuori gioco. Mi scrivono: fai ribrezzo, usi sempre il condizionale anche sull'affare Crocetta. Cosa devo dire? Crocetta ha sentito la frase ed è un manigoldo. Oh, vabbè, dovrei dire così, non lo so, ma Fabrizio, no, Corrado, come ti chiami? Corrado, tutte queste certezze da dove ti vengono? Non lo so. Non lo so. Vabbè, Vladimir, che deve fare? Che succederà adesso? Si dimetterà? Tu che conosci Crocetta, si dimetterà? Ma io voglio sperare che uno come l'ascoltatore come Corrado non si trovi mai in una situazione del genere, perché poi dopo, ragazzi, siamo tutti pronti fino a quando non capita a noi. Comunque vorrei ricordare che questa telefonata non è negli atti, come ha detto la procura di Palermo. Infatti. E ha anche smentito questa telefonata, e che questo signore, questo medico, è stato arrestato per truffa, falso e peculato. Sì. Quindi, ed era un amico di Crocetta, molto amico di Crocetta, è il dottore personale, però questo... E questo, io la cosa che mi stupisce sempre è come una persona di una certa cultura che fa il primario possa arrivare a dire una cosa del genere. Non so, forse... Vabbè, comunque. Siamo tutti delle cose strane, così parliamo tutti. Sì, però una roba del genere se l'ha detta, voglio dire, va fatta saltare in aria. Uno dice, va fatta fuori politicamente, cioè, ma non è che può dire. Va fatta saltare in aria come suo padre. Questa è veramente grave. Comunque, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo con Vladimir Luxuria e Maurizio Tortorella. Fibio Milan, manda il traffico in Italia, in Europa e nel mondo. Debussiato. 24 mattino. Milan, sono la Grecia. Perché tu vai in vacanza per 5 settimane e non posso andare in pensione a 55 anni? Ma chi credi di essere, Alessandro Magno, che si permette di offendere i radioascoltatori che non sono in grado purtroppo di rispondere per le rime? Milan, stamattina alle 6:30 ho sentito di nuovo la tua voce. Ti ho detto, gradirei la voce della signorina Marta Cagnola. Dai, su, un bacio. Non a te, alla Cagnola. Ciao. Nessun fortuna, volevo solo ricordare, come diceva Barzini, che fare il giornalista è sempre meglio che andare a lavorare. Wow, a figo! Quando ascolta Mina, so nice, I got you. Vabbè, Vladimir, sono così i nostri ascoltatori, eh? Anche un po' Matterelli, diciamo così. Molto creativi, devo dire. Quel signore, che mi sembra un signore un po' anziano, dice che insulto ce l'ha perché dico debosciati miei a coloro che si svegliano alle 7:20 e si uniscono al programma alle 7:20. Ma è un vezzeggiativo, signore, è un vezzeggiativo. Ma dai, affettuoso, debosciatelli, debosciatini, come vi devo chiamare? Debosciatucci, insomma. Si sveglia alle 4, pover'uomo. Magari si sveglia alle 4, dice io sono sveglio qui dalle 4, mi dai del debosciato, ma no, ma sono sicuro che farà tante cose durante la giornata. Però vorrei capire perché Antonio Razzi va al Gay Village. Ma è vera questa cosa che Antonio Razzi viene al Gay Village, Vladimir? No. Allora, il senatore Razzi, senatore, senti già come prendere le distanze. Il senatore Razzi in qualità di cantante, avendo fatto una canzone leggera che si chiama Fammi cantare. Io conosco Razzi, era in commissione cultura quando io ero parlamentare. In commissione cultura siamo in tanti, sono dei. Vi siete incrociati? Perché era già. Sì, era nel famoso. In quei due anni del governo. C'era già Razzi. Quindi insomma ci siamo. In commissione cultura. Magari qualcuno potrebbe pure dire Luxuria in commissione cultura, però vabbè. Diciamo che l'ho conosciuto. È una persona simpatica e divertente, quindi una volta io mi ricordo che in Molise presentai il mio libro e lui venne con sua moglie e poi rimanemmo a cena insieme e ballammo anche un tango insieme, mi ricordo, c'era questa orchestra che ballava. Ti prego, dimmi che c'è un video. Non lo so, no, il video foto, del tango so. Tra Vladimir, ma vi rendete conto? Hanno ballato un tango, Vladimir Luxuria e Antonio Razzi. Che sarà mai? No, poi dopo ci siamo rivisti e ci siamo incrociati in una trasmissione su Rai 1 e parlando della canzone, a un certo punto ho detto: viene a presentare al Gay Village. E quando succederà questo? Giovedì 30 luglio. No, vabbè, ma ragazzi, è una cosa fantastica. Hanno ballato un tango insieme, ormai è un amore che sta sbocciando lentamente. Ma che amore, già felicemente coniugato, è una cosa devo dire una cosa simpatica, d'estate ci stanno le cose simpatiche, no? Quindi ho anche detto: senti, ma tu già se la gente ti chiederà perché vai al Gay Village, tu Antonio cosa gli rispondi? Mi ha detto: io gli rispondo che se campa una sola volta, ma se campa una sola volta, hai capito? Maurizio, ma è straordinario, ma Antonio Razzi è un genio. Sì. E anche ragione, si campano la sua volta. Sì, ma certo che in commissione cultura. Cosa avrà promosso in commissione cultura Antonio Razzi? Non lo so. Va bene, caro Maurizio Tortorella, tu sei su Twitter e quanti amici hai? Pochissimi. 1500. 1500. Non lo so. Tu, Vladimir, quanti ne hai? 500.000. No, non lo so. Chi mi segue adesso, sono andato a controllare adesso, 69.800. 69.800, quindi, siete veramente due dilettanti. Sentite qui il presidente del consiglio in inglese, ho 2 milioni di amici su Twitter. Is nobody could supply the physical relation. I'm very happy for 2 million of people who follow me on Twitter. Of 80,100 people who are my friends on Facebook. But for my quality of life, the problem is maintain my real friends. Cioè sta dicendo che sono molto felice di avere 2 milioni su Twitter, ma sono molto più felice di mantenere le relazioni personali. Tanto l'inglese, come va Vladimir, tu che sei laureata? Non si dice 2 million of people, ma si dice 2 million people. Vabbè, vabbè, dai, qui stiamo veramente all'errore con la penna verde, cioè, non, vabbè, vabbè. E poi avrà anche gli amici, però gira col giubbetto antiproiettile. Hai visto, infatti, è incredibile! Cioè, no, quello è per gli amici del PD che gira. No, quella è la foto del giorno, io l'ho messa sul mio profilo Twitter Alino Milan, lo potete andare a vedere, cioè è andato lì e ha detto la sicurezza, amici kenioti, inizia da voi, da qui, dalla sicurezza, e stringeva la mano al presidente, c'era il corpetto antiproiettile con tutti normali, e lui si fidava talmente tanto della situazione lì in Kenya che nel palazzo presidenziale aveva il corpetto antiproiettile. Renzi. Adesso gli avranno consigliato, gli hanno detto i servizi segreti, gli hanno detto qua devi mettere, vabbè, insomma, comunque ha 2 milioni su Twitter, però è contento di avere relazioni personali. E allora, visto che avete nominato le intercettazioni, faccio sentire anche Maria Elena Boschi, la donna con la voce più bella del mondo, con le C che cantano e le S che suonano. Eccola qua. Il governo deve rispondere sui fatti, il resto è legittimo, probabilmente appassionante per gli interessati al genere fantasy, ma non ha niente a che vedere con l'attività del governo. Senti ancora un po'. Quello che è grave è che intercettazioni che non hanno alcuna rilevanza penale, anziché essere stralciate, siano finite ad un giornale, che siano state pubblicate. Purtroppo non è la prima volta che succede, speriamo che sia l'ultima. Chi è che è caduta la linea? Vladimir, è caduta la linea, ha sentito, si è emozionato talmente a sentire la voce di Vanene Lamboschi. Non ho capito se tu hai capito, Maurizio, cosa ha detto, perché io ero più sulle C, ero concentrato. Sì, ha protestato per l'intercettazione di cui parlavo prima. Ah, quella del fatto. Quella del fatto quotidiano, quella con le sue generali della finanza. Sì. Parlava di fantasy, di... non so. Fantasy. Vladimir, ti sei emozionata per la voce della Vanene Lamboschi e hai messo giù? No! Caduta la linea. No, vabbè, le ha detto che deve essere giudicata non per le forme ma per le riforme, però insomma guarda che quella donna lì, oltre ad essere una bella donna con una bella voce, è una molto, secondo me, molto molto intelligente. Non lo metto in dubbio. È molto capace, e se è anche bella non ci sta male. Vabbè, non lo metto in dubbio. Va bene, allora, voi che siete antigiustizialisti, voi che siete garantisti fino all'inverosimile, sentitevi un po' Luigi Di Maio che dice questo sul telefono. Ma se tu parli a telefono e non dici niente di male, ma perché devi impedire che i cittadini sappiano, tu dipendente dello Stato, che sei un politico, quello che fai e quello che dici? Oh, allora Maurizio, tu non sei dipendente dello Stato, ma che problema è a spiattellare tutto quello che dici di Vladimir Luxuria al telefono? Forza, voglio saperlo, pubblicatelo. Intercettateci tutti, anche Vladimir Luxuria, tu con Antonio Razzi, chissà che cosa ti sarei scambiata di telefonate. Vorrei sapere. Vorrei leggerle su. Ma no, gli ho già detto: preparati, metterò delle bellissime drag queen a ballare con te sul palco del Gay. Vi prego, il 30 luglio portate 50 telecamere, una da ogni angolazione, non va perso un millimetro di centimetro quadro di quello che succede in quella serata al Gay Village di Antonio Razzi, perché si vive una volta sola. Allora, vi ringrazio, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Vladimir Luxuria, che alle 9 sarà su Radio Capital, il Geco e la Farfalla. Grazie, alla prossima. E ora, giornale radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Dai, amici, che è venerdì. Forza, forza che è venerdì. Venerdì 17, però... Adesso non è che potete volere tutto dalla vita. Comunque io sono sempre fedele alla linea americana. È venerdì 13 quello che porta veramente. Ci hanno fatto anche un film, venerdì 13 in America. In Italia sarebbe un po' più venerdì 17, ma lasciate stare il 17. È venerdì. Guardate, guardate con ottimismo al bicchiere mezzo pieno. Si chiude oggi la 115esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Confidiamo nella 116esima a capire se succede qualcosa. Intanto vi ricordo che avremo ospite Salvatore Borsellino, il figlio, il fratello, perdonatemi, di Paolo Borsellino. Per tutta questa vicenda crocetta che è abbondante sui giornali che ora sfoglieremo, e parleremo di questo. Parleremo però anche estate. Vi ricordate l'anno scorso che è tornata... c'era la questione dell'orso in Trentino, ve lo ricordo, l'orso Danizza, o torna la questione degli orsi in Trentino. C'è chi chiede in Parlamento il potere di dare potere alla provincia autonoma di Trento di dimezzare gli orsi. O dimezzare vuol dire seccarli, farli fuori. E avremo ospite il deputato che lo chiede. Ma andiamo con ordine, i giornali. Venerdì 17 luglio, cari ascoltatori, allora, il Sole 24 Ore apre sulla Grecia, BCE alza gli aiuti, Draghi ridurre il debito, questo è il titolo di prima pagina, anche per Repubblica, Grecia più soldi dalla Banca Centrale Europea. Il Corriere della Sera invece apre sulla strage che è avvenuta ieri a Chattanooga, Tennessee, strage di Marines negli Stati Uniti. Un giovane uccide 4 militari in 2 basi. Era originario del Kuwait. Questo è il titolo di prima pagina. Draghi, meno debito per Atene, è anche l'apertura del Messaggero. Mentre la stampa, Grecia via libera al salvataggio, l'Unione Europea presta 7 miliardi alla Grecia. Poi c'è la vicenda Crocetta, il giallo Crocetta Borsellino, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, mentre l'Unità sentenzia l'isola che non c'è, il governatore siciliano Crocetta al capolinea, il PD gli ha tolto la fiducia verso il voto. E se lo dice l'Unità, molto vicina a Renzi e alla Presidenza del Consiglio, no, ma è un titolo abbastanza emblematico. Per Avvenire, Grecia, l'Unione Europea adesso muove i primi aiuti, c'è quel adesso in prima pagina messo tra parentesi, anche vagamente polemico da parte di Avvenire. Mentre Il Giornale titola Chi vuole arrestare Berlusconi. Per Libero ci sono due impresentabili, questo è il titolo di prima pagina, sono uno Crocetta, l'altro Claudio De Vincenti, che è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che per Libero scrive briga con gli uomini di De Benedetti. Voglio partire proprio dalla vicenda Crocetta perché è intricata come una matassa difficile da sbrogliare. I fatti, partiamo dai fatti. Esce oggi un articolo sull'Espresso a firma Piero Messina dal titolo Mettiamoci un Crocetta sopra. In questo articolo dell'Espresso si racconta di una telefonata del 2013. Al telefono sono Matteo Tutino, primario a Villa Sofia, ospedale palermitano, poi arrestato di recente, e Rosario Crocetta. Matteo Tutino è il medico personale di Crocetta e anche molto amico di Crocetta. E Matteo Tutino a un certo punto, scrive l'Espresso, dice di Lucia Borsellino, figlia di Paolo Borsellino e in quel momento assessore alla sanità. Va fatta fuori come suo padre. E a questa frase, scrive l'Espresso, Rosario Crocetta non replica, ascolta, tace, non si indigna, nessuna reazione di fronte a quel commento macabro nei confronti dell'assessore della sua giunta, nonché figlia di Paolo Borsellino. Ora capite che quando ieri alle 10 del mattino l'Espresso ha lanciato l'anticipazione di questa pubblicazione avvenuta oggi, si è scatenato il putiferio, perché messa così è una frase gravissima. Che succede però? Che nella giornata, poi nel pomeriggio, il procuratore di Palermo, Lovoi, procuratore capo, fa una conferenza stampa per dire a noi, agli atti, questa intercettazione non esiste, non risulta. E allora ecco che il giallo è completo. Il giallo della frase su Lucia Borsellino. Crocetta si autosospende, poi attacca. Questo è il titolo del Corriere. Poi attacca quando nel pomeriggio la procura smentisce che ci sia agli atti questa telefonata. Tra l'altro Crocetta l'abbiamo sentito in una serie di interviste audio. Si mette a piangere, scoppia a piangere, mi stanno uccidendo. Oggi fa un paio di interviste che trovate sul Fatto Quotidiano e su Repubblica, dove passa il contrattacco. Sentite qui, intervistato da Antonello Caporale a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Conta chi ha scritto quelle cose. Come chi ha scritto quelle cose? Sì, il giornalista che ha scritto queste cose è stato licenziato da me. L'autore dell'articolo, Piero Messina, è stato membro dell'ufficio stampa della Regione Sicilia. Il motivo per cui mi attaccano è la mafia. Vogliono ammazzarmi, cucirmi addosso il cappotto dell'indegno, liquidarmi politicamente. Forse ci sono riusciti, dice Crocetta. È una turlupinatura. E ora mi riservi la solitudine di questo mio profondissimo dolore. Vogliono le dimissioni, vogliono uccidermi. L'unica cosa insopportabile per me è il fango col quale mi stanno sporcando. Però, dice Antonello Caporale, purtroppo la signora Borsellino, Lucia Borsellino, ritiene plausibile quella telefonata. Perciò sono disperato, distrutto, perciò piango. Così Rosario Crocetta sul Fatto Quotidiano. Su Repubblica dice più o meno gli stessi concetti. Volevano farmi fuori, ma io sono pulito. Non c'è dubbio, c'è stata un'azione di dosseraggio contro di me. Mi hanno distrutto, ucciso. È quello che volevano fare, farmi fuori, eliminarmi. Ci stavano riuscendo, ma tutto sta diventando più chiaro e lo diventerà ancora di più. Ma lei, presidente, ricorda di aver sentito questa frase del dottor Tutino? Io non ho mai sentito questa frase, non ricordo assolutamente nulla del genere. Forse in quel momento non prendeva bene il telefono, ma non so di cosa si stia parlando. Se avessi sentito quella frase, avrei provato a raggiungere Tutino per massacrarlo di botte. Forse avrei chiamato subito i magistrati. Sono sconvolto, provo un orrore profondo. E poi aggiunge Crocetta, è un abituato a parlare anche con una certa enfasi, domani andrò alla Madonna del Carmelo, è il suo giorno, voglio portarle un mazzo di fiori, pregare per ringraziarla. Alla fine di questa giornata posso dire che nessuno può intaccare la mia persona e la mia lotta alla mafia. Da oggi non si parlerà più di metodo Boffo, ma di metodo Crocetta. Vi ricordate la vicenda di Dino Boffo, ex direttore d'Avvenire, certamente infangato da una campagna di stampa. Questo Crocetta. Dall'altra parte il direttore dell'Espresso, che è Luigi Vicinanza, viene intervistato dalla Stampa e si difende e difende il proprio giornalista. Quella telefonata esiste, risale al 2013, l'abbiamo ascoltata. Non c'è solo l'inchiesta nell'ambito della quale il medico Tutino è arrestato. Ci sono altri filoni d'indagine, dice Luigi Vicinanza, direttore dell'Espresso intervistato da Massimo Russo sulla Stampa a pagina 6. Quel dialogo esiste, ma non fa parte degli atti pubblici a disposizione delle parti coinvolte. È una chiamata del 2013, posso confermare che l'audio è sporco, ci sono alcune interferenze, i due parlano con grande confidenza a tratti in siciliano e il nostro cronista ha ascoltato l'audio e poi ha potuto ricopiare la trascrizione. Rifletterei piuttosto sul fatto che con grande anticipo sulla data Lucia Borsellino aveva fatto sapere che quest'anno non sarebbe stata presente alle celebrazioni per l'anniversario della morte del padre. E il direttore dell'Espresso dice: riflettete più che altro su questo. Come sia andata a finire, come finirà, non si sa. Secondo l'Unità, questo è il punto di non ritorno. Crocetta è alla fine della sua esperienza politica, anche perché il PD l'ha abbandonato. Secondo Avvenire, questa è un retroscena interessante di Marco Iasevoli a pagina 8, Renzi reagisce così con i suoi più stretti collaboratori. Questa vicenda è assurda. Sappiamo che il governo Crocetta è un governo della Sicilia inadeguato, ma quanto è successo paradossalmente lo rafforza. sulle intercettazioni, affonda Renzi. Questa vicenda conferma che non ci sono più regole. C'è una delega e la eserciteremo senza fermarci davanti a nessuno e a nessuna intimidazione. Dobbiamo intervenire sulle intercettazioni. È necessario. E ovviamente non si può non pensare al fatto che intercettazioni anche su Renzi, Renzi e il generale della Guardia di Finanza di Nolfi sono comparse appena qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano. Comunque ne parleremo alle 8.15. Voglio invece raccontare quello che è una notiziola che appare in neanche con tanto risalto su Repubblica, pagina 13, ma riguarda l'ex governatore della Lombardia Formigoni, attualmente senatore del nuovo centrodestra. E beh, è una testimonianza a processo di Carla Vites. Chi è? È la moglie dell'ex assessore alla sanità della Lombardia, Antonio Simone. È accusata di riciclaggio per l'acquisto di un appartamento considerato dall'accusa provento di reato. Si è presentata in aula e ha detto questo: mio marito, quindi l'ex assessore Simone, Pierangelo Daccò, colui che avrebbe pagato delle vacanze a Formigoni, e Roberto Formigoni facevano weekend romantici, tra virgolette romantici, in Sardegna e mio marito non mi portava. Daccò trascinava in vacanza gente che aveva fatto voto di castità, povertà e obbedienza, facendoli ballare come bambini deficienti. Questo virgolettato nella testimonianza è abbastanza esplicito. Si parla di cene eleganti, no? Che richiama altre cene eleganti, forse ben più celebri dal punto di vista della cronaca. Comunque, questa è la testimonianza. Ora bisogna capire se parla una donna un po' che si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa col tacco 12 magari, oppure se davvero è vero. Comunque la trovate su Repubblica, mentre la notizia che ci fa tenere le mani strettissime sul volante, proprio da quasi da morderlo questo volante oggi, la notizia che ci fa pinzare della giornata appare a pagina 17 sul giornale. È malata di cancro e chiede un rinvio per curarsi, ma il giudice dice no. È malata, chiede un rinvio per sottoporsi alla chemioterapia, ma il giudice dice no, respinge l'istanza. Il risultato, la causa viene comunque mandata in decisione. Accade a Lecce, un'avvocatessa di 44 anni che segnala il caso al Consiglio dell'Ordine Forense. La professionista avrebbe dovuto discutere la causa dinanzi alla prima sezione civile della Corte d'Appello, presieduta da Marcello Dell'Anna. Per questo aveva inoltrato domanda di rinvio, seguendo tutte le procedure. Ma a quanto pare la Corte ha deciso di respingere la richiesta per motivi di salute. Poi c'è stato un dietrofront, forse c'è stato un malinteso, probabilmente una cattiva interpretazione della richiesta di rinvio, ha detto il presidente, il giudice Dell'Anna. Il danno. Era fatto. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, lo zampirone dell'informazione. O se vuoi combattere le zanzare tigre, mo vieni ben qui nella base emiliana, che guarda che te tendiamo finché vuoi in studio, eh. Beh, ma chi è questo genio? Genio totale. Basta. Almeno fai il bravo, che di zanzara già ne dobbiamo sopportare una. Fai il bravo. Un grande abbraccio al nostro amico Beppino Cruciani. Allora, ma no, Silvana da Pisa che mi chiede, ci dici il titolo del film dove Totò dice sono cose che capitano? Ma come Totò? È una donna. Comunque il film lo dico una volta per tutti, ma in realtà se ci scrivete, l'ho detto anche privatamente, il film sono cose che capitano. Questo pazzo mondo, quattro volte pazzo. Questo pazzo mondo. Quello è il film. Allora, Berlusconi è tornato alla carica. Se mi arrestano, fate la rivoluzione. Questo è uno dei messaggi che ha lanciato all'assemblea degli amministratori locali azzurri. Bisogna rilanciare il partito, racconta Tommaso Labate sul Corriere della Sera, pagina 13. Ha detto questo e non altro. Se mi arrestano, spero abbiate il coraggio di fare una rivoluzione. Ha parlato dei magistrati di sinistra che mi hanno perseguito per anni, i magistrati e i giudici di sinistra che mi hanno fatto quello che mi hanno fatto, visto quello che è successo anche di recente a Napoli. Insomma, il solito Silvio Berlusconi che rilancia sul partito. Ci vuole ancora Forza Italia, ma anche, se volete, una grande casa aperta alla speranza. Potete chiamarla come volete, l'altra Italia o come più vi piace, lo anticipava ieri Repubblica. L'importante è che non ci siano politici di professione. Insomma, un Berlusconi che ritorna. Ma su questa frase, se mi arrestano fate la rivoluzione, il giornale fa un titolo di prima pagina con anche l'editoriale di Sallusti, cioè perché la pone così. Ma sono parole di Berlusconi, una battuta, un timore o un sospetto? Sallusti dice: Berlusconi è un uomo che ama scherzare su quasi tutto, ma non sulle libertà. E non solo la sua. Per cui escluderei che sia una battuta. Evidentemente, scrive Sallusti, in qualche procura, direi nelle solite procure, qualcuno non ha perso la speranza di realizzare il sogno che insegue da oltre 20 anni, togliere fisicamente di mezzo il leader del centrodestra. Insomma, il giornale dice che questa poteva essere una battuta, ma forse no. C'è qualcuno che vuole arrestare Berlusconi. Accidentolina. Vedremo. La politica italiana è soprattutto cronaca, quindi ancora si impone la politica estera, soprattutto con la Grecia in primo piano, lo sappiamo. L'altro ieri nella notte Tsipras è riuscito a far digerire l'accordo con l'Europa al Parlamento, anche se il suo partito Siriza si è spaccato. Tsipras ora si prepara alla battaglia interna verso il voto in autunno. Questo è quello che scrive Federico Fubini a pagina 3 del Corriere della Sera. Tsipras deve anche incassare ciò che Yanis Varoufakis, suo ex ministro delle finanze, ha detto. Lo ha definito così: ha compiuto una mutazione genetica. Dunque non tanto una svolta, ma proprio una mutazione genetica, secondo Varoufakis, è quello che è accaduto a Tsipras negli ultimi tempi. Il primo ministro, che ormai sta pilotando la Grecia verso il terzo programma di prestiti in 5 anni, se lo aspetta già. Da quando la maggioranza del comitato centrale di Siriza, i 39 deputati su 149, ha rifiutato di sostenere il nuovo piano di sacrifici, si aspetta una strada in salita. È pronto il rimpasto di governo, ma probabilmente ci saranno le elezioni nel prossimo autunno. Intanto la Banca Centrale Europea, su Avvenire, con una polemica viene scritto adesso, solo adesso, ma comunque ridà ossigeno ad Atene. Alessandro Merli racconta tutti i dettagli a pagina 3, perché a sorpresa la Banca Centrale Europea ha scongelato la liquidità di emergenza per le banche greche, alzando il tetto di 900 milioni e dunque a quasi 90 miliardi. È un segnale di sostegno ad Atene. Certo, arriva adesso, qualcuno fa notare, arriva adesso dopo che chiaramente il governo greco è riuscito a far digerire al Parlamento, a far votare il piano proposto dai creditori in pratica. E quindi adesso la Banca Centrale risponde così. C'è ovviamente, ed è partito da più giorni, il boicottaggio della Germania. La Germania, Angela Merkel, vista come quella fredda, cinica, cattiva, i giornali oggi raccontano e fanno vedere, danno ampio risalto al fatto che ha fatto piangere una bambina, una profuga di origine palestinese, che in un programma televisivo gli ha detto: io vorrei portare qui i miei genitori, i miei parenti. E Angela Merkel gli ha detto: ma non possiamo portare tutti, questa bambina è scoppiata in lacrime. Insomma, Angela Merkel è così, così fredda, dura, e tutti ce l'hanno contro la Germania. Io personalmente, non so voi, io non la conosco Angela Merkel, ma le consegnerei personalmente le mie chiavi di casa, gliele affiderei. Ma questa è una mia fisima personale. il festival del luogo comune, però è un articolo interessante di Pierluigi Battista che vi invito a leggere a pagina 6 del Corriere della Sera. La crisi greca ha ridato fiato agli stereotipi, tedeschi arroganti, francesi pure, italiani opportunisti. E certo, scrive Battista, ci mancava il boicott contro la Germania, la cattiva Germania, la perfida Germania, l'arrogante Germania, l'imperiale Germania, la crante Germania, per rendere più vivido, più chiaro, più ovvio, più leggibile il grande luogo comune di cui il paventato boicottaggio contro i tedeschi rappresenta il momento più triste e ovvio. Nel frattempo, mentre gli alacri boicottatori, credendo di far cosa buona per la Grecia, per l'Europa, per il loro spirito un po' ammaccato e spento, fanno la lista dei prodotti del bieco teutonico da mettere al bando, tutti i luogo comunisti, ci si è messo anche Renato Brunetta, snocciolano i loro stereotipi contro Angela Merkel, la più cattiva dei cattivi, detestata, insultata, diffamata, colpevole di ogni cosa, di voler affamare il popolo greco, di voler fare con l'euro quello che Hitler non è riuscito a fare con i carri armati, di voler imporre la sua ottusa disciplina, di non essere bella e di avere pure qualche chilo di troppo. Insomma, è partito il boycott Germany e Pierluigi Battista dice è il punto più basso dei luoghi comuni, del luogo comunismo anti-europeo. Questo sul Corriere della Sera. Ma come al solito risolverà tutto rispondendo alle domande cruciali Mauro Meazza. Allora, Angela Merkel è buona o cattiva? Mauro Meazza. Buongiorno, ma non potresti avvisarmi quando mi fai questo tipo di domande? Ma non è così difficile, è il 50%, devi... Ma secondo me non è cattivo. Ci sono persone che pendono dalle tue labbra e quindi in base al tuo giudizio... Ma no, è come ti ricordi Jessica Rabbit? Ho sentito che stamattina sei abbastanza preso con ora, il film. Ora, il paragone tra Angela Merkel e Jessica Rabbit. Eh beh, però dice, c'è una battuta nel film di Jessica Rabbit che dice, ma io non è che mi disegnano così. Ecco, mi sembra che sia una situazione calza a pennello. La disegnano così. Senti, guarda che anche se è una data un po' così invece, questo è venerdì 17, ti voglio dire che è una data importante perché abbiamo la seconda circolare sulla voluntary disclosure, caro Milan, la circolare 27. Angelino esulta. Angelino, io non so, forse lui no, ma il suo amico commercialista sicuramente sì, perché era molto attesa. Ne parliamo naturalmente con dovizia, ti piace dovizia? Dovizia di particolari nelle pagine di norme e tributi, dove peraltro continuiamo ad anticipare alcune particolari del decreto che darà attuazione al patent box, e questo lo dico sempre naturalmente con un pensiero ad Angelino. Ti voglio anche segnalare questa intervista molto importante di Beda Romano a Donald Tusk, presidente. È il Presidente del Consiglio europeo che appunto dà un po' di retroscena, insomma effettivamente tra sabato e domenica c'è stato un rischio di Grexit, cioè un rischio che tutto il negoziato saltasse, poi rientrato come sappiamo, tra l'altro ieri c'è questa frase importante del governatore della BCE Draghi che ha detto non è controverso. Segniamocela questa. Segniamoci. Non è controverso il taglio del debito greco. Questo detto da Draghi, uomo di poche ma sentite parole, non è una cosa da sottovalutare, anzi di più, traduciamo per tutti, potrebbe esserci il taglio e non è controverso. Allora, aspettando che ci sia il voto definitivo voto definitivo alla Camera, poi bisogna passare all'altro ramo come è noto, sulla delega per la pubblica amministrazione, la riforma pubblica amministrazione, di cui ti raccontiamo anche oggi nuovi particolari sul Sole 24 Ore, ti voglio dire che ci sarebbe una multa lasciata lì da 20 milioni. Sì. Quanto puoi mettere? Perché, vabbè, i due eurini, ho capito, lasciamo perdere. No, è che sai che cosa? Che ci hanno multato un'altra volta dall'Europa per i rifiuti in Campania. Non so se hai già dato una notizia a mani sul volante, ma è una vicenda che si trascina oramai credo da almeno una decina d'anni. E ci siamo beccati un'altra multa, 20 milioni più 120 mila per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure, e questo è, l'ho letto sulle pagine di Impresa e Territori, che tu forse mi trascuri un po', vero? No, le accarezzo anche quando ti... Vabbè, vabbè, in ogni caso questo ti volevo segnalare, purtroppo le mani sul volante tu le hai già consigliate per altre questioni, c'era anche questa opportunità. E in ultimo però una notizia positiva, poi andiamo incontro al fine settimana, cerchiamo di stare un po' su, l'auto nella UE, le vendite di auto sono andate bene, è un segnale chissà di ripresa. Vedremo. Nel frattempo, caro Alessandro, buona domenica e traffico! Alessandro Milan, la sabbia nel costume dell'informazione. La sabbia nel costume? Ah, comodissima, comodissima, una di quelle belle cose. Nel costume, diciamo, Non scendiamo nei particolari. Allora, che è successo ieri a Quinto, in provincia di Treviso? È successo quello che leggiamo sui giornali, una vera e propria rivolta da parte di cittadini normali che non vogliono l'arrivo di 101 profughi che il prefetto di Treviso ha sistemato dove appunto è scoppiata questa rivolta. Il rogo coi materassi per i profughi qui a Treviso non li vogliamo. C'è anche la frase molto dura del presidente della regione Veneto Zaia, che dice si sta africanizzando il Veneto. Questa è una dichiarazione di guerra, racconta Andrea Pasqualetto a pagina 19 del Corriere. Improvvisa e violenta la rabbia di Quinto, in provincia di Treviso, esplode di notte con roghi, barricate e scontri. Mamme come Teresa, operai come Mauro, disoccupati come Giovanni, pure qualche vecchio immigrato come il cingalese Damangi hanno detto no, non li vogliamo. Dall'altra parte, straniti, confusi, ci sono i 101 migranti trasferiti dalla prefettura di Treviso in una trentina di abitazioni nel complesso residenziale di 51 appartamenti. I due pullman carichi di profughi hanno fatto divampare un tizzone che già ardeva sotto la cenere. Vola anche qualche scontro, qualche pugno. E il governatore, appunto, Zaia viene intervistato da Marco Bresolin sulla Stampa a pagina 17. Ciò che è successo a Quinto è il nostro 9 novembre, usa addirittura questa espressione. Cioè, in che senso, Zaia? È come il muro di Berlino, che è rimasto lì per anni, ma poi una notte i ragazzi sono andati a buttarlo giù. Ecco, quello è successo a Quinto. Un punto di non ritorno, abbiamo toccato il fondo. C'è stato il Big Bang. Così Luca Zaia. Vi rendete conto? Lì abitano famiglie, molte delle quali con bambini piccoli, gente che paga un mutuo, e la prefettura, senza avvisare nessuno, senza verifiche sullo stato dell'arte, manda lì 101 profughi. È comprensibile che si siano incazzati. Adesso basta, noi siamo pronti a una guerra gandhiana. Vi spiego io com'è andato. I residenti hanno fatto un presidio, hanno montato delle tende davanti all'ingresso delle palazzine e si sono piazzati lì per rivendicare il loro diritto a vivere in pace. Queste le dichiarazioni di Luca Zaia sotto l'articolo Irruzione nelle case per i migranti, non vogliamo che abitino qui, anche su Repubblica, una pagina, la rivolta di Treviso contro i profughi, roghi e scontri via da qui. La situazione certamente non è delle migliori lì e in altre zone. Come detto, il Corriere della Sera ha aperto su quello che è stato l'attacco di una persona solitaria, 24 anni, americana ma originaria del Kuwait, identificata in Mohammed Youssef Abdulaziz, di 24 anni, che è avvenuta a Chattanooga, nel Tennessee, che io conoscevo per ora solo per aver dato i natali a Dan Peterson fino a questo momento, e invece è diventata al centro dell'America, anche del mondo, per qualche ora, per questa azione fuoco sui militari, uccisi 4 Marines. Un attacco lungo 30 minuti nel Tennessee, muore poi l'assalitore che è stato raggiunto dagli agenti accorsi in massa, lo hanno ovviamente ucciso. Non si capisce se sia un simpatizzante dell'estremismo islamico. Certo, le sue origini kuwaitiane hanno lanciato un allarme in questo senso, però c'è cronaca ovviamente che potete leggere su questo. Della multa dei 20 milioni ci ha detto Mauro Meazza, c'è su tutti i giornali, abbiamo preso una maxi multa dall'Unione Europea, 20 milioni di euro subito più 120.000 per ogni giorno di ritardo per i rifiuti in Campania. Chi paga? chi paga? Carmelo, non fare abbassare gli occhi e non fare gesti dell'ombrello. Chi paga? Controllate le tasche. Ognuno mette a disposizione quello che si riesce a mettere, per favore. Allora, c'è questa notizia di Libero che fa sorridere, perché adesso quando vi dirò il titolo fa sorridere anche a voi. Il tema in realtà è un tema molto serio, molto dibattuto, e cioè come combattere il riscaldamento globale, se ci sia o no un'emergenza ambientale, le emissioni di gas sulla Terra. È solo che uno dei colpevoli identificati come maggiormente colpevoli di questa situazione, non so, maggiormente colpevoli non lo so, ma tra i colpevoli sono le mucche che emettono molto metano con il loro, come dire, dal culo, non è che bisogna dire in altro modo, e con l'apparato digerente dei ruminanti, insomma, si sa. E allora l'ultima follia di Bruxelles, questo è il titolo di Libero, tappare il culo alle mucche. Questo è il titolo, la tocca piano Libero, la tocca piano. Cioè si è stabilito, si sta discutendo a Bruxelles, se siccome non, in realtà tappare il culo non si può, allora se mettere le mucche all'interno di luoghi chiusi dove ci sono degli appositi strumenti in grado di neutralizzare i pericolosi gas. Giuro, su Libero una pagina, la faccio vedere anche in diretta su Periscope, eccolo qua, l'ultima follia di Bruxelles, tappare il culo alle mucche. Ma non è la carta costa l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua invece, è una pagina intera, vi giuro, di Esteri, del Corriere della Sera di Stefano Montefiori, ve lo giuro. Su che cosa? La relazione tra il ministro Macron, che è un ministro a non so cosa, il ministro francese dell'economia, è importante, Macron, 37 anni, con la moglie, 57 anni, che è la sua vecchia professoressa di francese e teatro al liceo. E allora adesso vanno in giro una pagina per raccontare che il ministro dell'economia sta con la sua vecchia professoressa. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sui giornali, quello che ieri nella giornata era definito come la vergogna, il caso Crocetta, ora è diventato il giallo Crocetta. Presidente della Regione Sicilia, i fatti come li racconta l'Espresso? L'Espresso racconta che ci sarebbe un'intercettazione, che c'è un'intercettazione risalente al 2013, in cui il presidente della Regione Sicilia Crocetta è al telefono con un medico, il suo medico, il professor Tutino, un primario che è stato di recente arrestato. In questa intercettazione, dice l'Espresso, con il cronista che dice l'ho ascoltata personalmente, questo dottor Tutino dice a Crocetta: Lucia Borsellino, che è la figlia del magistrato Paolo Borsellino e che era l'assessore alla sanità, andrebbe fatta fuori come suo padre. E l'Espresso dice: Rosario Crocetta ascolta, non replica, silenzioso, non dice nulla. Ovviamente, se i fatti sono questi, potete capire la vergogna sulla stessa figura di Rosario Crocetta. Lucia Borsellino ieri una dichiarazione l'ha rilasciata. Mi sento intimamente offesa, certamente, e poi provo anche un senso di vergogna per loro. Credo che ogni altra parola in questo momento sia assolutamente superflua. Il quadro che emerge è un quadro veramente triste, nel quale si comprende qual è il clima nel quale sono stata costretta ad operare. Solo che il procuratore di Palermo, il procuratore capo della procura di Palermo, nel pomeriggio smentisce, dice questa intercettazione non risulta agli atti, non c'è. E allora ecco che il giallo si infittisce. Crocetta nel frattempo si autosospende. Siccome di questa storia io non so nulla, non devo fare nessuna intervista audio per il semplice motivo che sono semplicemente addolorato e basta. Mi sono autosospeso. E poi piange. Io non sono cuffaro che era legato alla condannato e stava lì a gestire la regione siciliana. Io ho scelto una missione, questa missione se è possibile portarla avanti, basta, se no, no, assolutamente. Lasciatemi nella mia sofferenza e nel mio dolore, qui mi sento. Mi lasci stare, per favore. Va bene. Io voglio salutare Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato Paolo Borsellino. Buongiorno Salvatore e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, i fatti poi non si sa quali siano bene i contorni di questa vicenda, però un commento, Salvatore, lo devo chiedere, insomma, di che idea ti sei fatto di tutta questa situazione? Guarda, ci sono due ipotesi, o che la notizia sia reale, o che la notizia sia stata creata ad arte, cioè quella che si chiama la macchina del sangue, che purtroppo nel nostro paese è tanto attiva. Allora, se la notizia è reale, è una cosa di una gravità estrema, perché la frase fare fuori Lucia, come è stato fatto con il padre, significa una cosa ben precisa, non farla fuori politicamente, ma farla fuori fisicamente, visto che Paolo è stato fatto saltare in aria. E questo, diciamo, se effettivamente Crocetta ha ascoltato una cosa del genere, non ha denunziato lo stesso giorno alla magistratura, è una cosa estremamente grave. Ma in ogni caso, il fatto che Tutino possa avere detto una frase del genere a Crocetta vuol dire che anche questo è estremamente grave. È estremamente grave perché se gliel'ha detta vuol dire che riteneva di poter essere in condizione di dirglielo. Sì. Cioè non so se mi spiego. Sì, cioè se quella frase c'è stata, indipendentemente dal fatto che uno l'abbia ascoltata, se uno si sente in libertà di poter dire una cosa del genere, vuol dire. Infatti, io credo che la difesa era in una zona d'ombra, mi sembra veramente una cosa puerile, se era in una zona d'ombra, se non ha ascoltato, eccetera. Ma in ogni caso, se Tutino ha ritenuto di potergliela dire, è una cosa di una gravità estrema anche questa, perché vuol dire che significa che insomma gliela poteva dire senza paura che poi quello corresse da un pubblico ministero a denunciare una minaccia del genere. No, ma è chiaro. Quindi che è il contorno è sì, sicuramente, no, è sicuramente grave. Sì, è estremamente grave. L'altra ipotesi invece è che sia una notizia costruita d'arte in base alla diciamo collaudata macchina del fango, e in ogni caso questa è una cosa estremamente grave, perché vuol dire che il degrado della vita politica in Italia e ormai ha raggiunto un livello. Sì, chiaro. Tutto ciò avviene a due giorni dalle commemorazioni 19 luglio e la strage di Via D'Amelio. Allora, qui Salvatore, bisogna fare un discorso perché sono successe alcune cose ultimamente. Intanto Lucia Borsellino, tua nipote, quindi la figlia del magistrato, si è dimessa da assessore alla Regione Sicilia anche per questa vicenda di Tutino, prima che venisse fuori questo ultimo scandalo. E poi sì, però ha lanciato questo dibattito, rilanciato anche da Manfredi Borsellino, suo fratello, quindi dall'altro figlio di Paolo Borsellino, a dire queste manifestazioni, le manifestazioni di facciata, l'antimafia di facciata non è una cosa che ci ha mai colpito e non ci saranno il 19 luglio. Questo so che ha suscitato anche in voi familiari, immagino, un dibattito. Guardi, io dico che i giornalisti che hanno interpretato le parole di Lucia di Manfredi nella maniera in cui le hanno interpretate, cioè un dissociarsi dalle manifestazioni che a Palermo sono organizzate direttamente da me, quello che avviene in Via D'Amelio, però tenendo conto che le manifestazioni che io organizzo in Via D'Amelio sono da 6 anni a questa parte col mio movimento della Gente Rossa, è proprio volto a impedire le passerelle, tant'è vero che è da 7 anni che non c'è più un politico, un'istituzione che si presenta in Via D'Amelio, perché hanno evidentemente paura di un'agenda rossa levata in alto, evidentemente quell'agenda rossa di ricorda loro quello che secondo me io chiamo il peccato originale di questa Seconda Repubblica. Secondo, sono cronisti che non hanno mai probabilmente partecipato alla manifestazione di Piazza Medio, perché se avessero partecipato saprebbero che i figli di Paolo non hanno mai partecipato alle manifestazioni a Palermo in Piazza Medio. Non hanno mai partecipato perché hanno sempre tenuto un profilo che io apprezzo anche di tenersi lontano da certe cose, e in Piazza Medio non si è mai venuti. Quindi perché i cronisti hanno dovuto identificare, diciamo, la dissociazione dal il messaggio di Lucia e poi quello successivo di Manfredi come un dissociarsi dalle manifestazioni che organizzano normalmente sia io che mia sorella Rita Borsellino in Via Amelio, visto che mia sorella tra l'altro abita e continua ad abitare proprio in Via Amelio. Secondo me è stata una cosa fatta dolosamente, perché sì, altrimenti, visto che ci sono altre manifestazioni a Palermo, per esempio pensi, perché a me questa cosa lascia allibito, una manifestazione, una sfilata di moda a Palermo in ricordo di Paolo Borsellino, quando mio fratello, il giorno in cui è stato ucciso, aveva le scarpe bucate, quindi fare una manifestazione di moda in ricordo di Paolo Borsellino è veramente un qualche cosa di assurdo. Però oggi, infatti, in un'intervista, in un'intervista alla stampa, oggi il direttore dell'Espresso, Luigi Vicinanza, ricordando ovviamente tutta questa vicenda, confermando il nostro cronista ha ascoltato questa telefonata, dice questo: Salvatore dice, rifletterei proprio su questo, perché Lucia Borsellino ha fatto sapere che quest'anno non sarebbe stata presente alle celebrazioni per l'anniversario della morte del padre. In realtà ci sta dicendo che non è la prima volta, non partecipa. Guardi, ripeto, l'uniche manifestazioni a cui hanno partecipato fino adesso i figli di Paolo sono il corteo che viene fatto la sera del 19 luglio da un comitato cosiddetto appunto di 19 luglio per Palermo, dove parte, che è organizzato da una organizzazione di destra, che comunque è una manifestazione assolutamente apolitica a cui partecipano un gran numero di palermitani, e che arriva in Via D'Amelio poi quando finisce la nostra manifestazione. I figli di Paolo, l'unica manifestazione a cui non hanno partecipato, ma si sono recati di solito qualche volta, non di solito, qualche volta soltanto, da dove parte questo corteo, per salutarli. Ecco, ripeto, in Via D'Amelio né i figli di Paolo né la moglie di Paolo, quando era in vita, sono mai venuti. L'unica volta in cui venne la moglie di Paolo, Agnese, fu quando in Via D'Amelio venne anche la Boldrini parecchi anni fa. Però c'è un dibattito che è stato lanciato indipendentemente da questo, e cioè da Lucia Borsellino, sulla cosiddetta antimafia di facciata. Ora, ampliando un po' più il discorso, esiste certo questa antimafia di facciata? Certo, esiste ed è ben diciamo, basta ricordare gli ultimi episodi a Palermo, quello del direttore dell'aeroporto di Palermo e di altri paladini dell'antimafia che si è scoperto che stavano dall'altro lato. Purtroppo il fatto di adoperare l'antimafia per poter fare carriera o fare strada esiste senz'altro. È indubbio, e quindi che senso ha? Cioè, perché il cittadino che vede una manifestazione antimafia come può distinguere, diciamo, il buono dal cattivo? Brutalmente. Non è facile distinguere, ma dovrebbe distinguere. Però in ogni caso, diciamo, anche il tipo della manifestazione dovrebbe lasciare capire certe cose, perché fare una manifestazione, ripeto, in cui si fa una sfilata di moda come se questo potesse ricordare Paolo Borsellino è evidente. D'altra parte lo stesso presidente Mattarella, per esempio, è in grado di distinguere, perché parteciperà in Via D'Amelio proprio alla veglia organizzata da Rita Borsellino, che si terrà il 18 sera. So che oggi, invece, se non sbaglio, nel quartiere della Calza sarà inaugurata la casa di Paolo, no? dove Borsellino nacque. Allora, questa sarà inaugurata, non è esattamente, è sotto la casa dove Borsellino è nato, e dove, adoperando i locali della vecchia farmacia e dei locali attigui che io, senza chiedere un soldo alle istituzioni, direttamente ho acquisito, nascerà un centro di accoglienza dei ragazzi del quartiere per toglierli dalla spirale povertà, emarginazione, criminalità organizzata, dove in maniera gratuita io stesso e alcuni volontari insegneremo ai ragazzi del quartiere, come una volta i falegnami mettevano a bottega ai ragazzi per insegnare il lavoro, noi lo faremo con quelli che sono gli strumenti di oggi e del futuro. E oggi viene inaugurata. Sì. Oggi viene inaugurata. E viene inaugurata oggi. Insomma, chiamare questa una antimafia di passerella mi sembra un po' azzardato. No, sento un po' di rabbia, perché Salvatore Borsellino, mi sembra di capire che l'idea che qualcuno abbia potuto associare quelle frasi di Lucia Borsellino e Manfredi Borsellino con le manifestazioni che organizzate voi vi ha fatto molto arrabbiare. Ma sicuramente mi fa molto arrabbiare. Pensi che la manifestazione di chiusura della manifestazione che io faccio in Via D'Amelio è una acchianata, la chiamiamo, una salita al Monte Pellegrino, al Castello Ottireggio, con le agende rosse sotto il sole, che se qualcuno, qualche cronista vuol chiamarlo una passerella, io lo invito a venire a partecipare anche lui. È una prova proprio di dedizione quasi al ricordo di Paolo che noi diamo salendo a piedi le strade che portano al Castello Ottireggio sul Monte Pellegrino a Palermo, le agende rosse levate in alto. Questa è la passerella che noi facciamo. Salvatore Borsellino, per concludere, è opportuno a questo punto che Crocetta si presenti, perché mi risulta che fosse atteso, che doveva anche attendere e ricevere il Presidente della Repubblica Mattarella. È opportuno che partecipi alle manifestazioni in ricordo di Paolo Borsellino? Guardi, mia sorella sulle dopo le prime notizie che davano praticamente per certo l'esistenza di queste intercettazioni ha mandato a Crocetta un sms dicendogli non venire in Via D'Amelio perché non saresti persona gradita. Questo è l'sms che ha mandato mia sorella. Ha risposto Crocetta? Non mi risulta. La stessa cosa avrei detto e ho detto io sull'impatto delle prime notizie che erano veramente sconvolgenti. Ora io mi sospendo il giudizio, perché se veramente queste intercettazioni o pretese intercettazioni fossero il risultato della macchina del fango, che purtroppo in Italia abbiamo già sperimentato in tante occasioni, allora sarebbe un atto di sciacallaggio. Certo. Ma come facciamo a sapere? Cioè, sarebbe incolpevole. Le manifestazioni sono. Me lo dica la magistratura. Ma le manifestazioni sono tra due giorni, non è che allora si va bene. Infatti, in questo momento, Crocetta, proprio perché in ogni caso c'è questa notizia, farebbe bene, diciamo. Ma io credo che lo farà Crocetta. Farebbe bene evitare. Io credo che Crocetta lo farà. Evitare di venire. Sì, sì. Penso che lo eviterà sicuramente. Lo eviterà. Certo forse, che... forse non l'avrebbe evitato Cuffaro, ma il Crocetta è una persona da questo punto di vista più sensibile umanamente, quindi io credo che lo farà sicuramente. Io intanto ringrazio Salvatore Borsellino, so che sono giorni molto concitati, pieni ovviamente di manifestazioni, di impegni da mantenere, anche l'inaugurazione oggi di questa casa, dove quella esattamente sotto dove in cui è nato Paolo Borsellino e col cui progetto cercate di aiutare i giovani, è sicuramente qualcosa di da sottolineare dal punto di vista positivo. Ringrazio Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo Borsellino, magistrato, e su questa vicenda invece intercettazione sì, no, esiste, non esiste, possiamo solo affidarci alle versioni di parte. L'Espresso con il suo direttore Vicinanza dice e conferma: abbiamo ascoltato, il nostro cronista ha ascoltato questa registrazione, il procuratore di Palermo dice non è agli atti, Vicinanza, il direttore dell'Espresso, dice ma è in un'altra inchiesta, ma esiste. Qua bisogna solo affidarsi a credere o all'uno o all'altro. Dopo la pubblicità, se volete 800 24 00 24, ma dopo la pubblicità parleremo anche di orsi, che vi siete ammattiti, dice no, ci sono gli orsi in Trentino, c'è qualcuno che propone di dimezzare gli orsi in Trentino. Dimezzare cosa vuol dire? Parli fuori? Allora, sono le 8:41 minuti. Il numero per intervenire in diretta è il solito 800 24 00 24. Parliamo di orsi. Ebbene sì, parliamo di orsi, perché ve la ricordate l'anno scorso la di sfida degli orsi, l'orso Danizza? Chi si ricorda l'orso Danizza che ha diviso letteralmente un paese se prenderlo, catturarlo, poi alla fine rimase ucciso nel tentativo di cattura. A parte la regione, in regione Trentino Alto Adige c'è una zona, ci sono delle zone, soprattutto nella provincia di Trento, dove pare che sia ripartita la disfida degli orsi, mettiamola così, la guerra degli orsi, titolava Repubblica. Saluto l'onorevole Mauro Ottobre. Buongiorno onorevole Ottobre. Buongiorno a lei, buongiorno ascoltatori. È giusto, partito autonomista trentino tirolese, lei rappresenta certo. Questo in Parlamento. Sì. Allora, lei ha depositato una mozione, lei è il primo firmatario, ma vari deputati, soprattutto deputati del Vox Partai, hanno depositato questa mozione, e l'obiettivo è questo: accordare il diritto a dimezzare il numero degli esemplari in Trentino. Li volete uccidere, insomma, Ottobre? No, assolutamente no. E come si fa a dimezzarli, scusi? Si catturano e si riportano altrove dove sono stati presi la prima volta, sostanzialmente. Sa che... È evidente che il progetto ha funzionato negli anni circa del 99-2000. Con il rilascio di circa 10 orsi provenienti dalla Slovenia, hanno trovato nel nostro territorio, nel nostro Trentino, il giusto habitat, solo che oggi abbiamo un numero incontrollato di orsi. Ma gli orsi si spostano, poi se voi li mandate in Slovenia, poi magari si spostano e tu. Ufficialmente sono circa una settantina, 70-80, ma dicono che siano molti di più. È evidente che anche c'è stato un recente attacco da parte di un altro orso. Questa persona ancora delle grandi conseguenze fisiche, grandi problemi. E per questi motivi la gente ha paura adesso. La gente ha paura, però guardi, onorevole Ottobre, molti dicono che l'orso fa l'orso, cioè sta lì nel bosco, sta lì tranquillo, magari ogni tanto si rovina qualche coltura, questo è un po' un problema per gli agricoltori. L'orso se non ha fame va bene, ma quando ha fame evidentemente inizia a spostarsi, andare anche nei paesi e avvicinarsi alle case. Dopodiché per fortuna gli episodi sono stati due, uno l'anno scorso e uno quest'anno, però gli attacchi iniziano a esserci, insomma. Ma quanti attacchi di cani randagi ci sono per esempio in Italia? Tantissimi, non per questo si cercano di prendere i cani randagi, cioè è davvero... come dire, nel mare Adriatico rimettiamo lo squalo bianco, è evidente che lo squalo può stare nei fondali, però quella volta che viene su, se morde qualcuno, dopo qualcuno prenderà la colpa. Evidentemente questo, però uno che deve fare mare, se uno va nel mare, voglio dire, certo, però mare, se bianco il squalo, voglio dire, nel Mediterraneo, io non lo farei, no, certo, neanche io lo farei, però è la natura, voglio dire, lo squalo dove deve stare, mica sta su una pianta, così l'orso sta però a mio avviso, l'avviso anche di altri tanti colleghi, il territorio trentino è troppo piccolo, noi siamo mezzo milione di abitanti, evidentemente il problema è che anche il turismo inizia a rimetterci, hanno paura, non vengono da noi, sì. In realtà tante altre persone vengono, perché io personalmente nei boschi ci vado quando ho tempo, non ho paura, però se lei si immagina di camminare un mezzo al bosco, di fermarsi un secondo, e lei dice, ma se vedo l'orso adesso cosa faccio? Guardi, l'anno scorso sono stato in Canada, l'anno scorso era il terrore, ovviamente con i miei figli, dico, tutte le istruzioni, se incontriamo un orso, poi non li abbiamo incontrati, per fortuna. Però la questione è questa, onorevole Ottobre, c'è anche chi ha depositato l'idea di fare lo spray al peperoncino anti-orso con gittata da 12 metri, ma esiste questo anche addirittura? Sì, esiste anche questo, viene usato anche negli Stati Uniti d'America. Però sono più collegati nei parchi dove proprio l'orso si vede vicino, insomma, anche per gli addetti ai lavori, diciamo. È evidente che il nostro orso, possiamo dire la verità, non è che sia pericoloso, questo dobbiamo dirlo chiaramente. È evidente che quando c'ha i cuccioli, per esempio, È un po'... evidente che con tutti gli animali tendono a difendere. Sì. Quindi però, onorevole, ma che male fa? Cioè, nel senso che io capisco, qualcuno può pensare che è, che ne so, il podista o il cacciatore o il cercatore di funghi che va dalle sue parti a rompere le scatole all'orso. Ah no, glielo chieda a quel signore che faceva jogging, che è stato mezzo sbranato, cosa faceva nel bosco. Ma uno va nel bosco, cammina, fa jogging, fa un po' di footing, evidentemente si trova questo orso e fa tutti gli accorgimenti che deve fare, però l'orso è una persona, ovviamente un animale, risponde alle sue logiche, evidentemente ha attaccato questa persona, insomma. era quasi in fin di vita. Sì, no? Sì, no, ma questo è per quello che è nato il dibattito. Però sa che la provincia di Trento vorrebbe anche rivendicare il diritto in alcuni casi di eliminare orsi pericolosi. Ecco, nella vostra mozione c'è anche questa come estrema ratio. No. Questo non, io non ho usato questa, evidente che chi risponde se un giorno, io spero di no, a rimetterci le pene sia un bambino, una donna, una mamma, una persona, chi risponde? Perché quando non scappa il morto siamo tutti bravi a criticare, sì. Poi quando scappa il morto cosa facciamo? Dovevamo fare questo, la politica non ha fatto questo, quindi è evidente che è meglio prevenire. Quindi noi diciamo una cosa molto semplice: va bene l'orso introdotto, sono troppi, sono ingestibili perché non riusciamo a gestirli, e se lei pensa anche tutte le persone, le forestali che lo seguono, sono tutti i costi. A me dispiace far parlare il Parlamento di questo, sembra un piccolo problema parlare del Parlamento, ma dipende dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Galletti, quindi... Che mi sembra abbia detto che è una specie tutelata e non va toccata. Ma lei condivide l'idea dell'estrema ratio dell'uccisione? Lei la condivide nel caso di orso pericoloso? Cioè quell'orso che ha aggredito quella persona. In qualsiasi paese civile, nel momento in cui un orso sbrana una persona, viene immediatamente eliminato. In qualsiasi persona, in un paese felice, voglio dire, civile, viene fatto questo. Ma questo perché? Negli Stati Uniti d'America, se sbrana una persona, cosa succede? Tre secondi. Lo ammazzano. Ma quale prima la vita dell'uomo, credo, no? Lei lo dica, guardi che se la sento degli animalisti. Gli animalisti possono dire quello che vogliono, anche il signore che faceva footing nei boschi era animalista. È stato il primo a dire che questo va catturato perché è troppo pericoloso. Troppo pericoloso. Quindi quando capita, poi capita. Quindi in quel caso quell'orso lì andrebbe abbattuto, parliamoci chiaro, perché ha fatto questo tipo di aggressione. Io non sono per l'abbattimento, io sono per la cattura, che vada messo in un posto più tranquillo dove ci abbiamo altre, per esempio, viene in mente a Spol minore, Spol maggiore, dove c'è una bellissima riserva dove gli orsi stanno lì e stanno tranquilli. Punto. Dove le persone possono vederlo, eccetera, eccetera. Eppure a San Romedio abbiamo un antico santuario dove da sempre c'era San Romedio, camminava con l'orso, quindi anche lì ci sono delle gabbie apposte per degli orsi, potrebbe stare anche lì quell'orso che dà fastidio. Però non certo a infestare, diciamo, i boschi, a portare pericolo, ecco, questo voglio dire. Va bene, onorevole Ottobre, vedremo se sarà, pensa che sarà un'estate come l'anno scorso in cui tutti sembrava che non parlassero se non di Danizza? No, quest'anno no. Non succede. Ai turisti dico di venire in Trentino tranquillamente. Questa sì è un'altra questione. Sì, abbiamo dei bei boschi, l'orso generalmente gira verso la sera, così insomma. Ecco, non fate insomma footing di sera nei boschi, ecco, perché io dico, se uno fa footing di sera nei boschi, magari vuol dire che vuole andare anche a incrociare un orso, può succedere. E se poi succede, voglio dire, è la natura. Nella natura succede tutto, anche che ci sia un attacco di un orso. Comunque, onorevole Ottobre, io la ringrazio. Mauro Ottobre, deputato del Partito Autonomista Trentino Tirolese, la disfida degli orsi, vedremo se ci sarà anche quest'estate. Intanto il traffico. Sono le 8:51 minuti, è il momento di seguire le imprese sportive dei nostri atleti che da Siracusa sono partiti per arrivare all'Expo tra un bel po' di giorni. Noi saremo già in vacanza, ma Irene Zerbini, che verrà dopo di noi, seguirà le imprese di Samuel Marchese e gli altri 8-9 compagni, in tutto una ventina anche con gli accompagnatori, ragazzi che sono portatori di disabilità e che sono partiti da Siracusa per arrivare all'Expo. Allora, Samuel, ieri com'è andata? Siete arrivati a Catania? Ciao Alessandro, ieri è andata tutto bene, secondo i piani previsti. Siamo arrivati a destinazione al comune di Catania, bene, dove siamo stati accolti dal sindaco, dal vice sindaco e da vari assessori. Abbiamo impiegato circa un'oretta per arrivare, e comunque è andata tutto bene. Ci auguriamo che anche le prossime tappe, tra cui quella di Messina, che oggi purtroppo non potremo fare per problemi organizzativi, cioè domani si possa fare e possa riuscire per il meglio. Cioè, in che senso? No, fammi capire, problemi organizzativi, non potete fare la tappa, perché? Che succede? Abbiamo dei problemi anche per Messina, perché siccome domani c'è anche concerto di Giovanotti la comune ha dei problemi per quanto riguarda la scorta della polizia municipale, perché dicono che arriveranno 50.000 persone e quindi hanno dei seri problemi organizzativi per quanto riguarda la scorta. E io volevo lanciare un appello per quanto riguarda appunto la scorta, sia della polizia municipale e anche dei ciclisti in bici, perché abbiamo bisogno anche del loro appoggio per essere più in sicurezza. Certo. Il problema è che le nostre handbike sono molto basse per terra, siamo quasi a 10 cm da terra più o meno, e quindi gli automobilisti hanno molta difficoltà a vederci quasi, e quindi abbiamo bisogno di loro per essere più sicuri e più visibili. Ma è chiaro, per stare in sicurezza. No, ma allora lo faccio anch'io l'appello. Allora, avete capito, cari ascoltatori, oggi la tappa non c'è, e forse domani non si può fare questa tappa su Messina perché c'è il concerto di Giovanotti, e quindi tutta la sicurezza della polizia municipale per il concerto, per le persone che arriveranno. E invece loro hanno bisogno di un po' di persone che li scortino, perché con l'hand bike sono a livello quasi del terreno e quindi per una questione di sicurezza vanno scortati. Oh, Comune di Messina, mi raccomando, trovate 2, 3, 4 poliziotti, agenti di polizia municipale, voglio intendere, che possano scortare, possano fare la tappa, far fare la tappa a Samuel e a tutti gli altri. Domani no, non siamo in onda, ma insomma lunedì lo scopriremo, Samuel. Intanto in bocca al lupo davvero. E come dire, la nostra segreteria telefonica c'è? Milan, sono la Grecia. Perché tu vai in vacanza per 5 settimane e non posso andare in pensione a 55 anni? Ma chi credi di essere, Alessandro Magno, che si permette di offendere i radioascoltatori che non sono in grado purtroppo di rispondere per le rime? Milan, stamattina alle 6:30 ho sentito di nuovo la tua voce. Ti ho detto, gradirei la voce della signorina Marta Cagnola. Dai su, un bacio. Non a te, alla Cagnola, ciao. Nessun fortone, volevo solo ricordare, come diceva Barzini, che fare il giornalista è sempre meglio che andare a lavorare. Wow, a figo! Quando ascolto Milan, sono good, so nice, I got you! Diciamo così, è proprio venerdì. È proprio venerdì, mettiamola così, è venerdì per noi che magari arranchiamo e abbiamo bisogno del weekend, ma è venerdì anche per qualcun altro che ha bisogno di un sostegno, di un aiuto e di un abbraccio contenitivo, di quelli talmente contenitivi che sembrano una camicia di forza. No, sto scherzando, cari ascoltatori. 0246524492 è la nostra segreteria telefonica. Con I Feel Good vi voglio lasciare a questo punto, con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Ci troviamo lunedì prossimo, 6:30, puntuali noi. Attaccare 24 mattino.